7. In quegli ambienti, 70 metri sottoterra, l'aria condizionata è gelida come sotto una crosta di ghiaccio, ma è necessaria per le attrezzature. Lungo il corridoio di marmo ronza il carrello elettrico per i pasti, sospinto da un gastronauta in tuta. Si ferma sopra un vetro azzurrato. 3 metri sotto, in mezzo a schermi e monitor, c'è un uomo con un pellicciotto sintetico. Porta occhiali blu da minatore, mezzi guanti e un passamontagna. L'inserviente picchia sul vetro con un piede. L'uomo alza appena la testa e fa un cenno di diniego. «Niente oggi, dottora Tarva?» «No, grazie. Ho ancora il latte di ieri.» Il gastronauta scuote la testa. Non vede l'ora di andarsene da quei corridoi gelidi, abitati da pazzi. Sparisce, lasciando dietro di sé un triste odor di lasagna. Tutto torna silenzioso. L'uomo col pellicciotto, seduto su una poltrona girevole, muove le dita su una lunga pulsantiera e accende un monitor collegato con i piani superiori. Stanno facendo un provino per 2000 aspiranti a pubblico adorante. Ci sono 200 candidati, fermi da un'ora a guardare nel vuoto. Uno sbadiglio, uno sbattere di palpebre, un momento di disattenzione e si è scartati. I più resistenti vengono filmati e passati all'archivio. C'è un continuo bisogno di pubblico adorante. A Tarva accende un altro monitor. È una telecamera nascosta nell'ufficio del selezionatore di vallette. Spesso si vedono scene piccanti. Ma adesso c'è una selezione di suore per Pentiti, il programma di confessione in diretta di Don Basco, il prete pazzo con altissima audience. A Tarva sospira annoiato. Accende un terzo monitor. Il panorama della città, il cielo giallo. Un aereo sta atterrando. A Tarva aziona il mouse e lo trasforma in un disegno animato. Lo spezza in due con un missile Wurster e lo fa cadere. Un gioco come un altro. Mette in funzione il monitor personale, il porno di ieri. L'ha fatto montando insieme i dettagli di un porno tedesco, una pubblicità di Collant e alcuni primi piani della ragazza delle pulizie, filmata di nascosto. Lo archivia. Non si masturba mai due volte con lo stesso porno. «Bene», dice Tarva, «mettiamoci al lavoro. Piano del giorno?» Il computer centrale, su cui troneggia un busto in plastica del gerarca, risponde. «A. Visita gerarca a vittime terremoto. Modifica delle reazioni della gente. Aggiungere abbraccio bambina con regalo biscotti ben visibili. Vedi contratto sponsor. 75 secondi di durata. B. Dichiarazioni capo leader opposizione Amaur. Ridicolizzare. 60 secondi. C. Guerra Shama. 734esima puntata. Bombardamento chimico come da sceneggiatura. 125 secondi. Fin troppo facile, pensa Tarva. Mette su un disco. Marce militari. Sempre musica quando crea. Decidi di iniziare da Amaur. Grandangola leggermente l'immagine. La faccia di Amaur diventa gonfia e ottusa. Interviene sulla voce con una distorsione di frequenza, rendendola stridula. Aggiunge un dettaglio. Alcuni presenti che mangiano voracemente attorno a un tavolo. Scena presa da un vecchio festival dell'opposizione. La inserisce proprio nel momento in cui Amaur parla di torture. Poi inserisce due pause nel discorso, come fossero due indecisioni. Alla fine aggiunge 10 secondi di Amaur che sale su una limousine di lusso. È un vecchio filmato del suo matrimonio, l'ha già usato 3 volte, ma funziona sempre. E adesso la guerra sciama. C'è bisogno di materiale nuovo. A Tarva Call Sect 108. Si collegò con l'archivio. Sullo schermo apparve la faccia dell'archivista, un giovanotto cieco ed elegante. «Serve altro materiale sugli sciama?» «Sì, roba nuova», disse Tarva. «Bombardamenti chimici, teschi bolliti, anduietto napalm». «C'è del materiale girato in studio?» «Bene, basta che sia nuovo. Dopo 700 puntate la gente ne ha già viste di tutti i colori». «Va ancora forte però», ghignò l'archivista. Le immagini cominciarono a scorrere. Un villaggio carbonizzato, soldati sciama abbrustoliti come quaglie. Ottimo materiale. Ne selezionò il 70%, poi avvertì un'insolita sensazione di gelo. Sullo schermo era apparsa una scena confusa, una figura tra le fiamme. La figura avanzò. Era un uomo che bruciava vivo, il volto completamente sfigurato. L'uomo teneva qualcosa tra le mani. Fece alcuni passi verso la macchina da presa, sembrò invocare aiuto, poi crollò a terra. L'immagine scomparve. A Tarva era scosso da un lungo brivido. «Che roba è questa?» chiese. Avrebbe potuto rivederla a rallenti, ma non se la sentiva. Eppure ne aveva viste di peggiori. Morte di un guerriero sciama dell'esercito filogovernativo, linciato e bruciato vivo per strada. Girata in studio 2 mesi fa, numero d'ordine 6157, rispose l'archivista. Grazie, disse Tarva. Spense lo schermo. Camminò su e giù per la sala, strascicando il suo pellicciotto. Sentì nuovamente freddo e alzò il termostato di qualche grado. Cosa insolita per lui, che amava vivere sotto zero. Si tolse gli occhiali. Una patina bianca gli velava gli occhi. Era quasi cieco per l'esposizione ciberscopica. Si levò il mezzo guanto. Sulla mano destra aveva un tatuaggio, un ideogramma, a forma di fiocco di neve.